Tornando dalla messa, incontravamo spesso Le Grandin, il quale, trattenuto a Parigi dalla sua professione di ingegnere, poteva venire nella sua tenuta di Combray solo dal sabato sera a lunedì mattina, a parte il periodo di vacanze estive. Era uno di quegli uomini che, a parte una carriera scientifica, nella quale peraltro si sono brillantemente affermati, possiedono una cultura completamente diversa, letteraria, artistica, che la loro specializzazione professionale non utilizza, ma di cui si giova la loro conversazione. Più letterati di molti uomini di lettere, allora non sapevamo che Le Grandin godesse di una certa reputazione di scrittore, e fummo molto sorpresi di sapere che un celebre compositore aveva messo in musica alcuni suoi versi. Dotati di una vena più facile di quella di molti pittori, ritengono che la vita che conducono non sia la più consona per loro, e si atteggiano nei confronti delle loro pratiche e occupazioni, ora con una noncuranza mista a fantasia, ora con un'attenzione rigorosa, altera, sprezzante, amara e coscienziosa. Alto, con un bel portamento, un volto pensoso e fine, i lunghi baffi biondi, lo sguardo azzurro e disincantato, di una cortesia raffinata, conversatore come mai ne avevamo incontrati, appariva agli occhi della mia famiglia, che lo portava sempre ad esempio, il tipo dell'uomo di élite che affronta la vita nel modo più nobile e delicato. La nonna gli rimproverava solo di parlare un po' troppo forbito, un po' troppo come un libro stampato, di non avere nel linguaggio la naturalezza che aveva nelle sue cravatte alla Lavalliere, sempre svolazzanti, nella giacca diritta, quasi da scolaro. Si stupiva anche delle infuocate filippiche in cui si lanciava spesso contro l'aristocrazia, la vita mondana, lo snobismo, certamente il peccato a cui si riferisce San Paolo quando parla del peccato per cui non c'è remissione. L'ambizione mondana era un sentimento che la nonna era così incapace di provare e quasi di comprendere che le pareva perfettamente inutile metterci tanta foga nel condannarlo. Inoltre trovava di cattivo gusto che Le Grandin, la cui sorella era sposata dalle parti di Balbec con un gentiluomo della bassa Normandia, si lanciasse in attacchi così violenti contro i nobili, arrivando perfino a rimproverare alla rivoluzione di non averli ghigliottinati tutti. «Salve, amici!» diceva venendoci incontro. «Beati voi che potete fermarvi qui così a lungo. Io domani devo rientrare a Parigi, nella mia nicchia. Oh, naturalmente!» aggiungeva con quel sorriso dolcemente ironico e deluso, un po' distratto, tipico di lui. In casa mia non mancano certo tutte le cose inutili. Manca solo il necessario, un grande lembo di cielo come qui. Cercate di conservare sempre un lembo di cielo sopra la vostra vita, fanciullo mio, aggiungeva rivolto a me. Voi avete un'anima bella, di una qualità rara, una natura d'artista. Non fatele mancare ciò di cui ha bisogno. Quando, al nostro ritorno, la zia ci faceva chiedere se Madame Goupil fosse arrivata in ritardo alla messa, non eravamo in grado di risponderle. In compenso, aumentavamo la sua agitazione dicendole che in chiesa un pittore stava copiando la vetrata di Gilbert Le Mauvais. Françoise, spedita immediatamente dal droghiere, era tornata a mani vuote a causa dell'assenza di Théodore, al quale la doppia professione di cantore incaricato in parte della manutenzione della chiesa e di commesso di drogheria conferiva, in virtù delle sue relazioni con tutti, una sorta di scienza universale. «Ah!» sospirava la zia, «come vorrei che fosse già l'ora di Eulalie! Ah, è veramente l'unica che me lo possa dire!» Eulalie era una ragazza zoppa, attiva e sorda, che si era ritirata dopo la morte di Madame de la Bretonnerie, presso la quale era stata a servizio fin da bambina, e aveva preso in affitto una camera di fianco alla chiesa, camera da cui scendeva ogni momento, sia per le funzioni che in altri momenti per dire una preghiera o dare una mano a Théodore. Il resto del tempo lo passava facendo visita ai malati, come la zia Léonie, alla quale raccontava che cos'era accaduto a messa o ai vespri. Non disdegnava di aggiungere qualche extra alla piccola rendita che le passava la famiglia dei suoi antichi padroni, andando di tanto in tanto a dare un'occhiata alla biancheria del curato o di qualche altra personalità di rilievo del mondo clericale di Combray. Portava sopra una mantella di panno nero una cuffietta bianca quasi da religiosa, e una malattia della pelle dava a una parte delle sue guance, al suo naso ricurvo, i toni rosa accesi della balsamina. Le sue visite erano la grande distrazione di zia Léonie, che non riceveva quasi più nessuno, tranne il signor curato. La zia aveva poco a poco allontanato tutti gli altri visitatori, perché ai suoi occhi avevano il torto di rientrare nell'una o nell'altra delle due categorie di persone che detestava. Gli uni, i peggiori, i primi di cui si era sbarazzata, erano quelli che la consigliavano di non auscultarsi troppo e professavano, magari in negativo, e manifestandola solo con certi silenzi di disapprovazione o certi sorrisi di perplessità, la dottrina sovversiva che una piccola passeggiata al sole e una buona bistecca al sangue le avrebbero giovato più del letto e delle medicine. Proprio a lei, quando due cattivi sorsi d'acqua di Vichy erano capaci di restarle 14 ore sullo stomaco. L'altra categoria era composta da persone che avevano l'aria di crederla più gravemente malata di quanto non pensasse, o tanto gravemente malata come lei diceva. Così, quelli che aveva fatto salire dopo qualche esitazione e dietro le richieste ufficiose di Françoise e che durante la visita avevano dimostrato quanto fossero indegni del favore loro accordato, azzardando un timido «Non credete che se vi muoveste un po' con il bel tempo?» o che al contrario, quando lei aveva detto «Mi sento giù, molto giù, è la fine, poveri amici miei», le avevano risposto quando non c'è la salute, ma voi potete tirare avanti così ancora chissà quanto». Questi, sia gli uni che gli altri, potevano star certi che non sarebbero stati mai più ricevuti. E se Françoise si divertiva nel vedere l'aria spaventata della zia quando dal suo letto le capitava di scorgere Henri Saint-Esprit, una di quelle persone che davano l'impressione di venire da lei, o quando sentiva una scampanellata, rideva ancor di più, come a uno scherzo ben riuscito, delle astuzie sempre vittoriose di mia zia per arrivare a farle congedare e della loro aria di sconfitta quando se ne tornavano sui loro passi senza averla vista. E in fondo ammirava la sua padrona, che giudicava superiore a tutte quelle persone per il fatto stesso che non voleva riceverle. Insomma, mia zia esigeva al tempo stesso che si approvasse il suo regime, si compiangessero le sue sofferenze e la si rassicurasse sul suo futuro. Era in questo che ella lì eccelleva. Mia zia avrebbe potuto dirle 20 volte in un minuto «la fine, mia povera ella lì». E 20 volte la lì avrebbe risposto «Conoscendo la vostra malattia come la conoscete voi, Madame Octave, arriverete a 100 anni, come mi diceva ancora ieri Madame Sazerin». Una delle più ferme convinzioni di Elalie è che l'imponente numero di smentite ricevute dall'esperienza non era bastato a scalfire, era che Madame Sazerin si chiamasse Sazerin. «Non chiedo di arrivare a 100 anni», rispondeva la zia, che preferiva non vedere assegnato ai suoi giorni un termine preciso. E siccome ella lì, in quel modo, sapeva come nessun altro distrarre la zia senza faticarla, le sue visite, che avevano luogo regolarmente ogni domenica, salvo impedimenti imprevisti, erano per la zia un piacere la cui prospettiva la teneva in quei giorni in uno stato d'animo sulle prime piacevole, ma ben presto doloroso, come una fame eccessiva, se appena ella lì tardava anche di poco. Protratta troppo a lungo, quella voluttà di attendere ella lì si trasformava in supplizio. La zia non cessava di guardare l'ora, sbadigliava, aveva dei mancamenti. La scampanellata di ella lì, se arrivava alla fine della giornata, quando lei non ci sperava più, la faceva quasi star male. In realtà, la domenica non pensava che a quella visita, E appena finito di servire il pranzo, Françoise aveva fretta che noi lasciassimo la sala per poter salire a occupare, come diceva lei, la zia. Ma soprattutto a partire dal momento in cui le belle giornate si installavano a Combray, già da un pezzo l'ora altera del mezzogiorno, discesa dalla torre di Saint-Hilaire, che per un momento aveva ornato di 12 gemme della sua corona sonora, era echeggiata intorno alla nostra tavola, accanto al pane benedetto, venuto anch'esso in tutta semplicità, uscendo dalla chiesa, e noi eravamo ancora seduti davanti ai piatti delle mille una notte, appesantiti dalla calura e soprattutto dal cibo. Infatti, alla base consueta di uova, cotolette, patate, marmellate, biscotti, che ormai nemmeno ci annunciava, Françoise aggiungeva, secondo le stagioni dei campi e degli orti, il frutto della marea, le vicende del commercio, le cortesie dei vicini e la sua ispirazione personale, e con tale puntualità che il nostro menù, come quei quadrilobi scolpiti nel XIII secolo sul portale delle cattedrali, rifletteva un poco il ritmo delle stagioni e dei fatti della vita, aggiungeva un rombo, perché la pescivendola gliene aveva garantito la freschezza, un tacchino, perché ne aveva visto uno bello al mercato di Rue Saint-Ville-les-Pins, dei cardi al midollo, perché in quel modo non ce li aveva mai fatti, un cosciotto arrosto, perché stare all'aria aperta stimola l'appetito, e fino alle 7 c'era tutto il tempo per mandarlo giù, degli spinaci, tanto per cambiare, delle albicocche, perché erano ancora una primizia, del ribes, perché entro 15 giorni sarebbe finito, dei lamponi che Swann aveva portato di persona, delle ciliegie, le prime che venissero dal ciliegio del giardino dopo 2 anni che non dava più frutti, del formaggio alla crema che una volta mi piaceva tanto, un dolce alle mandorle perché l'avevo ordinato il giorno prima, una brioche perché toccava a noi offrirla. Quando tutto questo era finito, creata appositamente per noi, ma dedicata più specialmente a quell'intenditore che era mio padre, una crema al cioccolato, ispirazione e attenzione personale di Françoise, ci veniva offerta, fuggitiva e lieve come un'opera di circostanza in cui lei aveva profuso tutto il suo talento. Chi avesse rifiutato di assaggiarla dicendo «basta, non ho più fame», sarebbe immediatamente retrocesso al rango di quei villani che anche di un'opera donata loro da un artista guardano al peso e alla materia, mentre il valore risiede tutto nell'intenzione, nella firma. Lasciarne anche una sola goccia nel piatto sarebbe stata una prova di villania simile a quella di chi si alza in piedi prima della fine di un'esecuzione musicale sotto gli occhi del compositore. Alla fine la mamma mi diceva: «Su, non vorrai restare qui in eterno. Se fuori fa troppo caldo, vai in camera tua. Ma prima vai a prendere una boccata d'aria per non metterti subito a leggere appena alzato da tavola». Io andavo a sedermi accanto alla pompa e alla sua vasca, spesso ornata come un battesimale gotico da una salamandra che scolpiva sulla pietra consunta il rilievo mobile del suo corpo allegorico e affusolato, sulla panchina senza schienali all'ombra di un lilà, in quell'angolo del giardino che attraverso una porta di servizio dava sui Rue de Saint-Esprit, e sul cui terreno, poco curato, sorgeva, sopraelevato di 2 gradini e sporgente rispetto alla casa, come una costruzione autonoma, il retrocucina. Se ne scorgeva il pavimento rosso e lucido come porfido. Più che l'antro di Françoise, sembrava un tempietto di Venere. Traboccava delle offerte del lattaio, del fruttivendolo, della venditrice di legumi, venuti a volte da borghi molto lontani per dedicarle le primizie dei loro campi, e il suo fastidio era immancabilmente coronato dal tubare di una colomba. Un tempo, invece di indugiare nel bosco sacro che lo circondava, prima di salire a leggere, entravo nello studiolo a pian terreno che mio zio Adolphe, un fratello del nonno, ex militare andato in pensione col grado di maggiore, occupava a pian terreno e che anche quando le finestre aperte lasciavano entrare il caldo, se non proprio i raggi del sole che raramente giungevano fin lì, Emanava immancabilmente quell'odore oscuro e fresco, al tempo stesso di bosco e di ancien régime, che fa sognare a lungo le narici quando entriamo in certi padiglioni di caccia abbandonati. Ma da parecchi anni non entravo nello studiolo di zio Adolphe, che non veniva più a Combray a causa di un litigio intercorso fra lui e la mia famiglia, per colpa mia, nelle seguenti circostanze. Una o due volte al mese, a Parigi, mi mandavano a fargli visita, nell'ora in cui lui solitamente finiva di pranzare, con indosso una semplice giacca da camera, e servito dal suo domestico, in giubba da lavoro di tela a righe viole e bianche. Si lamentava, brontolando che non fosse più venuto da un pezzo, che tutti lo abbandonassero. Mi offriva un marciapane o un mandarino. Attraversavamo un salotto dove non ci si fermava mai, dove il fuoco non veniva mai acceso, con modanature dorate alle pareti, i soffitti dipinti di un azzurro che pretendeva di imitare il cielo, e mobili capitonè di raso, come in casa dei nonni, ma di colore giallo. Poi passavamo in quello che lui chiamava il suo gabinetto da lavoro, alle cui pareti erano appese alcune di quelle stampe raffiguranti su fondo nero una dea carnosa e rosea nell'atto di guidare un carro, issata su un globo con una stella in fronte, che piacevano tanto nel Secondo Impero perché la gente ci trovava un'aria pompeiana, che poi furono detestate e che oggi tornano di moda per una sola e identica ragione, a dispetto delle altre che si vogliono addurre, cioè che hanno un'aria Secondo Impero. E restavo lì con lo zio finché il domestico veniva a chiedergli da parte del cocchiere perché ora dovesse attaccare i cavalli. Lo zio allora si immergeva in una meditazione che lo stupefatto domestico non avrebbe mai osato disturbare con il minimo movimento e di cui attendeva con curiosità il risultato, sempre il medesimo. Alla fine, dopo una suprema esitazione, lo zio pronunciava infallibilmente queste parole. «Alle 2:15», che il domestico ripeteva con stupore, ma senza discutere. «Le 2:15? Bene, riferisco». A quell'epoca avevo la passione per il teatro, un amore platonico perché i miei genitori non mi avevano ancora permesso di andarci, e io mi rappresentavo in modo così poco esatto i piaceri che vi si potevano gustare da essere quasi propenso a credere che ogni spettatore guardasse come in uno stereoscopio una scena allestita solo per lui, benché simile a migliaia d'altre osservate, ciascuno per suo conto, dal resto degli spettatori. Ogni mattina correvo fino alla colonna Morris per vedere i manifesti degli spettacoli. Non c'era niente di più disinteressato e più felice dei sogni che ciascuna delle pièce annunciate offriva alla mia immaginazione e che erano influenzati sia dalle immagini, inseparabili dalle parole che ne componevano il titolo, che dal colore stesso dei manifesti, ancora umidi e rigonfi di colla, sui quali il titolo spiccava. A parte qualche opera strana come Le Testament de César Giraudeau e Le Diporé, che venivano stampati non sul manifesto verde dell'Opéra Comique, ma su quello color vinaccia della Comédie Française, niente mi appariva più diverso dal pennacchio scintillante e bianco dei Diamants de la Couronne, quanto il raso liscio e misterioso del Domino Noir. E poiché i miei m'avevano detto che quando fossi andato per la prima volta a teatro avrei dovuto scegliere fra queste due pièce, tentando di approfondire successivamente il titolo dell'una e il titolo dell'altra, poiché era tutto quello che ne sapevo, per cercare di cogliere in ciascuno il piacere che mi prometteva e di paragonarlo con quello che l'altro racchiudeva, giungevo a rappresentarmi con tale intensità, da una parte un dramma abbagliante e fiero, dall'altra una commedia dolce e vellutata, che mi ritrovavo incapace di decidere a quale delle due accordare la mia preferenza, come se per dessert mi avessero proposto di optare fra il riso all'imperatrice e la crema al cioccolato. Tutte le conversazioni con i miei compagni vertevano su quegli attori, la cui arte, benché mi fosse ancora sconosciuta, era la prima forma fra tutte quelle che riveste sotto la quale l'arte mi si lasciava presagire. Tra il modo che l'uno o l'altro aveva di declamare o di colorire un brano, le più piccole differenze mi sembravano di un'importanza incalcolabile, e secondo quello che mi era stato detto di loro, li classificavo in ordine di talento, in liste che mi recitavo per tutto il giorno e che avevano finito per consolidarsi nel mio cervello e ingombrarlo con la loro inamovibilità. Più tardi, al ginnasio, ogni volta che, appena il professore aveva girato la testa, mi rivolgevo a un nuovo amico, la mia prima domanda era se fosse già stato a teatro e se trovasse anche lui che l'attore più grande fosse Go, il secondo Delaunay, eccetera, e se, secondo lui, Fèvre venisse solo dopo Tiron o Delaunay dopo Coquelin. La repentina mobilità che Coquelin, perdendo la rigidità della pietra, acquistava nella mia mente per passare al secondo posto, e la miracolosa agilità, la feconda animazione di cui Delaunay appariva di colpo dotato per retrocedere fino al quarto, restituivano la sensazione della fioritura e della vita al mio cervello reso sciolto e fertilizzato. Ma se gli attori mi assorbivano tanto, se la vista di Maubin, che usciva un pomeriggio dal Théâtre Français, mi aveva provocato il brivido e le sofferenze dell'amore, a qual punto il nome di una fulgida stella sulla porta di un teatro, a qual punto il volto di una donna che pensavo potesse essere un'attrice, intravisto dietro il vetro di un coupé che passava nella via con i suoi cavalli dal frontale fiorito di rose, lasciava in me un turbamento più prolungato, uno sforzo impotente e doloroso per rappresentarmene la vita. Classificavo in ordine di talento le più illustri, Sarah Bernhardt, la Berma, Barthé, Madeleine Brohan, Jeanne Samary, ma a interessarmi erano tutte. Ora mio zio ne conosceva parecchie, e anche delle cocotte, che io non distinguevo molto bene dalle attrici. Le riceveva in casa sua, e se noi andavamo a fargli visita solo in certi giorni, era perché negli altri ci andavano delle donne con le quali la sua famiglia non avrebbe potuto incontrarsi, almeno a giudizio di questa, perché per lo zio, al contrario, la sua eccessiva facilità nell'usare a certe graziose vedove, che forse non erano mai state sposate, a certe contesse dal nome altisonante, che altro non era se non un nome di battaglia, la cortesia di presentarle alla nonna, o addirittura nel donare loro qualche gioiello di famiglia, l'aveva già più di una volta messo in urto con il nonno. Spesso, se nella conversazione affiorava il nome di un'attrice, sentivo mio padre dire alla mamma sorridendo: «Un'amica di tuo zio». E io, pensando all'attesa ostinata a cui uomini importanti a volte s'erano sottoposti per anni, magari inutilmente, alla porta di una donna che non rispondeva alle loro lettere e li faceva cacciar via dal portiere, mi dicevo che mio zio avrebbe potuto risparmiarla a un ragazzino come me, presentandolo in casa sua all'attrice che, inavvicinabile per tanti altri, era per lui un'intima amica. Così, con il pretesto di una lezione che era stata spostata e cadeva ora così a sproposito che già più volte mi aveva impedito e mi avrebbe impedito ancora di vedere lo zio, un giorno, diverso da quello riservato alle nostre visite, approfittando del fatto che i miei avevano pranzato più presto del solito, uscii di casa e invece di andare a vedere la colonna dei manifesti teatrali, cosa per la quale mi lasciavano uscire da solo, corsi da lui. Davanti al suo portone notai una carrozza a due cavalli con un garofano rosso ai paraocchi, mentre il cocchiere ne aveva uno all'occhiello. Dalla scala sentii una risata e una voce di donna, e dopo aver suonato, un silenzio seguito da un rumore di porte che si chiudevano. Venne ad aprirmi il domestico e parve imbarazzato nel vedermi. Mi disse che lo zio era molto occupato, certamente non avrebbe potuto ricevermi. E mentre lui andava comunque ad avvertirlo, la stessa voce di prima disse: «Oh sì, fallo entrare, solo un minuto, mi farebbe tanto piacere. Nella foto che hai sullo scrittoio somiglia tanto a sua madre, tua nipote, non è vero? Quella nella foto accanto alla sua. Vorrei vederlo un momento solo, quel ragazzino». Sentii lo zio brontolare, irritarsi. Finalmente il domestico mi fece entrare. Sul tavolo c'era il solito piatto di marzapane. Lo zio indossava la sua giacca da camera di tutti i giorni, ma di fronte a lui, con un vestito di seta rosa e una lunga collana di perle al collo, era seduta una giovane donna che finiva di mangiare un mandarino. L'incertezza in cui mi trovavo, se chiamarla Madame o Mademoiselle, mi fece arrossire, e non osando rivolgere lo sguardo verso di lei per timore di doverle parlare, andai a dare un bacio allo zio. Lei mi guardava sorridendo. Lo zio le disse: «Mio nipote», senza dirle il mio nome, né dire a me il suo, certamente perché, dopo le noie che aveva avuto col nonno, cercava di evitare il più possibile ogni contatto tra la sua famiglia e quel genere di relazioni. «Come somiglia a sua madre», disse lei. «Ma se avete visto mia nipote solo in fotografia», disse bruscamente lo zio con tono burbero. «Ah, vi chiedo scusa, mio caro, ma l'ho incontrata sulle scale l'anno scorso, quando voi eravate tanto malato. L'ho intravista solo un attimo, in un lampo, è vero, e le vostre scale sono molto buie, ma vi è bastato per ammirarla. Questo piccolo giovanotto ha i suoi begli occhi. E anche questo», disse tracciando col dito una linea lungo la parte bassa della sua fronte. «La signora vostra nipote porta il vostro stesso nome, amico mio?» chiese poi a mio zio. «Somiglia soprattutto al padre», borbottò lo zio, che non ci teneva a fare delle presentazioni a distanza, dicendo il nome della mamma, più che farne in presenza. «È tutto suo padre, e anche la mia povera mamma». «Non conosco suo padre», disse la signora in rosa, inclinando leggermente la testa. «E non ho mai conosciuto la vostra povera mamma, amico mio. Vi ricordate? È stato poco dopo il vostro grave lutto che ci siamo conosciuti». Provavo una lieve delusione, perché quella giovane signora non era diversa dalle altre belle donne che avevo visto a volte in famiglia, in particolare la figlia di un nostro cugino dal quale andavo tutti gli anni a Capodanno. Solo più elegante, l'amica dello zio aveva lo stesso sguardo vivace e buono, la stessa aria franca e cordiale. Non le trovavo niente di quell'aspetto teatrale che ammiravo nelle foto delle attrici, né dell'espressione diabolica che sarebbe stata consona alla vita che doveva condurre. Stentavo a credere che fosse una cocotte, e soprattutto non avrei mai creduto che fosse una cocotte di gran classe se non avessi visto la carrozza a due cavalli, l'abito rosa, la collana di perle, e non avessi saputo che mio zio ne conosceva solo di alto bordo. Ma mi chiedevo come il milionario che la provvedeva di vettura, palazzo e gioielli potesse provare piacere a dissipare il suo patrimonio per una persona che aveva un'aria così semplice e per bene. Eppure, pensando a quale doveva essere la sua vita, la sua immoralità mi turbava forse di più che se si fosse materializzata davanti a me in una veste speciale, di essere invisibile come il segreto di qualche romanzo, di qualche scandalo che avesse indotto a lasciare la casa di genitori borghesi destinandola a tutti e fatto sbocciare in bellezza e innalzato sino al demimonde e alla notorietà quella donna il cui repertorio di variazioni mimiche e di toni della voce, simile a tante altre che già conoscevo, mi portavano mio malgrado a vedere come una giovane di buona famiglia, che non apparteneva più ad alcuna famiglia. Eravamo passati nello studio, e lo zio, con un'aria un po' imbarazzata dalla mia presenza, le offrì delle sigarette. «No, caro», disse lei, «lo sapete, sono abituata a quelle che mi manda il Granduca. Gli ho detto che ne eravate geloso». E da un astuccio estrasse delle sigarette coperte di dorate scritte straniere. «Ma sì», riprese all'improvviso, «devo averlo incontrato qui da voi, il padre di questo giovanotto. Non è vostro nipote, come ho fatto a dimenticarlo?» «Ah, è stato così buono, così squisito con me», disse con aria modesta e sensibile. Ma pensando a come doveva essere stata ruvida l'accoglienza di mio padre, che lei diceva di avere trovato squisita, io, che ne conoscevo il riserbo e la freddezza, mi sentii imbarazzato, come per una indelicatezza che lui avesse commesso per quella disparità fra la riconoscenza eccessiva che gli veniva tributata e la sua scarsa amabilità. Più tardi, Questo mi è parso uno degli aspetti patetici del ruolo di queste donne oziose e zelanti, quello cioè di consacrare la loro generosità, il loro talento, un sogno disponibile di bellezza sentimentale, poiché come gli artisti loro non lo realizzano, non lo includono negli schemi dell'esistenza comune, e un oro che a loro costa poco, ad arricchire di una montatura preziosa e fine la vita disadorna e male aggraziata degli uomini, come quella donna che nel fumoir dove mio zio la riceveva in giacca da camera profondeva il suo corpo così dolce, l'abito di seta rosa, le perle, l'eleganza che emana dall'amicizia di un granduca, e analogamente aveva preso qualche frase insignificante di mio padre, l'aveva elaborata con delicatezza, le aveva dato una forma, una qualificazione preziosa, e incastonandovi uno dei suoi sguardi di una così bell'acqua, con una sfumatura di umiltà e di gratitudine, la restituiva mutata in un gioiello d'arte, in qualcosa di assolutamente squisito. «Su, andiamo, è ora che tu te ne vada», mi disse lo zio. Mi alzai. Avevo una voglia irresistibile di baciare la mano della signora in rosa, ma mi pareva che sarebbe stata una mossa troppo audace, una sorta di rapimento. Il cuore mi batteva forte mentre mi dicevo «devo farlo, non devo farlo», poi smise di chiedermi cosa dovevo fare per poter fare qualcosa, e con un gesto cieco e insensato, del tutto privo di tutte le ragioni che un attimo prima deponevano in suo favore, portai alle labbra la mano che lei mi tendeva. «Che carino! È già galante! Ci sa fare con le donne? Ha preso dallo zio! Sarà un perfetto gentleman!» disse stringendo i denti per imprimere alla frase un accento leggermente britannico. «Non potrebbe venire da me una volta a prendere a cup of tea? Come dicono i nostri vicini inglesi, basterà che mi mandi un blé la mattina». Non sapevo cosa fosse un blé, non capivo la metà delle parole che diceva la signora, ma il timore che dietro di loro si celasse qualche domanda a cui sarebbe stato scortese non rispondere mi impediva di smettere di ascoltarle con attenzione e ne provavo una grande stanchezza. «Ma no, non è possibile», disse lo zio alzando le spalle. «Non lo lasciano mai libero, studia sempre. A scuola vince tutti i primi premi», aggiunse sottovoce perché non sentissi quella menzogna e non lo contraddicessi. «Chissà, forse diventerà un piccolo Victor Hugo, una specie di Volabelle». «Adoro gli artisti», riprese la signora in rosa. «Solo loro capiscono le donne, loro e le persone eccezionali come voi. Perdonate la mia ignoranza, amico mio. Chi è Volabelle? Sono forse quei volumi dorati che stanno nella piccola libreria a vetri del vostro salottino? Ricordate che avete promesso di prestarmeli. Li terrò benissimo». Mio zio, che detestava prestare i suoi libri, non rispose e mi accompagnò fino all'ingresso. Folle d'amore per la signora in rosa, io coprii di baci appassionati le guance impregnate di tabacco del mio vecchio zio, e mentre lui, con un certo imbarazzo, mi faceva capire, senza osare dirmelo apertamente, che avrebbe preferito che non accennassi ai miei di quella visita, io gli dicevo con le lacrime agli occhi che il ricordo della sua bontà era in me così vivo che un giorno avrei certo trovato il modo di testimoniargli la mia gratitudine. Era così vivo, in effetti, che un paio d'ore più tardi, dopo alcune frasi misteriose e secondo me inadeguate a fornire ai miei un'idea abbastanza precisa della nuova importanza che avevo acquisito, trovai più esplicito raccontare loro nei minimi particolari la visita da cui venivo. Non pensavo con questo di procurare delle noie allo zio, come avrei potuto pensarlo, visto che non lo desideravo. E non potevo supporre che i miei trovassero qualcosa di male in una visita in cui io non ne trovavo affatto. Non succede tutti i giorni che un amico ci chieda di non mancare di scusarlo con una donna a cui non ha potuto scrivere e noi trascuriamo di farlo, ritenendo che quella persona non possa attribuire importanza a un silenzio che per noi non ne ha alcuna. Immaginavo, come tutti, che il cervello degli altri fosse un ricettacolo inerte e docile incapace di reazioni specifiche rispetto a quanto vi veniva introdotto. E non dubitavo che, depositando in quello dei miei la notizia della conoscenza che avevo fatto attraverso lo zio, avrei trasmesso a loro, al tempo stesso, come mi auguravo, il giudizio positivo che avevo riportato di quella presentazione. Sfortunatamente, i miei, nel valutare il comportamento dello zio, si attennero a principi del tutto diversi da quelli che io suggerivo loro di adottare. Mio padre e mio nonno ebbero con lui delle burrascose spiegazioni. Io ne fui indirettamente informato. Qualche giorno dopo, incrociando per strada lo zio che passava a bordo di una vettura scoperta, avvertii tutto il dolore, la gratitudine, il rimorso che avrei voluto esprimergli. Rispetto alla loro immensità, mi parve che una semplice scappellata da parte mia sarebbe stato un gesto meschino e avrebbe potuto fargli supporre che io mi sentissi tenuto verso di lui a nient'altro che a una banale cortesia. Decisi di astenermi da quel gesto così inadeguato e mi girai dall'altra parte. Lo zio pensò che mi attenessi in quel modo agli ordini dei miei e non glielo perdonò mai. Morì parecchi anni dopo, senza che nessuno di noi l'avesse più rivisto.